Sull'energia, la risposta alla situazione energetica è fondata su quattro pilastri. Il primo è la diversificazione. Diversificazione in due sensi. Primo, nei confronti di altri fornitori di gas. Per noi quello che rileva è il gas rispetto al gas russo. L'Italia è già attiva in questa direzione. L'altra direzione della diversificazione è quella della sostituzione di fonti fossili con rinnovabili. Questa è l'unica strada su cui contare nel lungo periodo, ma occorre fare molto di più ora in questa situazione per aumentare visibilmente gli investimenti in quest'area. Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato le delibere riguardanti 6 campi eolici e altre fonti di rinnovabili, anche campi di grandi dimensioni. Quindi si stanno muovendo le cose, ma il procedimento autorizzativo è ancora molto lento. E questo è vero sia a livello comunitario sia a livello nazionale. Su questo punto la Commissione ha promesso che aiuterà gli Stati membri in ogni possibile modo. Il secondo pilastro è quello di introdurre un tetto di prezzi al gas. Su questo ci sono pareri vari, molti hanno sostenuto l'opportunità di questa misura e quindi la Commissione, credo al prossimo Consiglio europeo, presenterà più in generale un rapporto su come diminuire il contagio dal gas al resto dell'elettricità. Quindi esaminerà anche questo aspetto. Il terzo problema, il terzo pilastro, in parte connesso a questo, è quello di staccare il mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dal mercato del gas. Come voi sapete, oggi c'è un solo prezzo, quindi anche energia elettrica prodotta a bassissimo costo, come è quella prodotta dalle energie da molte fonti rinnovabili, arriva al consumatore a un prezzo uguale a quella prodotta con il gas. E questa è la causa principale della lievitazione delle bollette. E il quarto punto, e questo è molto importante che la Commissione l'abbia riconosciuto nella sua comunicazione di qualche giorno fa, è la tassazione degli extra profitti delle società elettriche. La stima della Commissione è che attraverso una tassazione dei sovrapprofitti delle società elettriche possa arrivare un gettito di circa 200 miliardi. A proposito di queste insufficienze energetiche, poi la discussione si è allargata anche alle eventuali insufficienze di altre materie prime, tra cui l'agroalimentare. E qui una delle risposte che viene naturalmente data è che se questo dovesse perdurare o aggravarsi, occorrerà importare da altri paesi, Stati Uniti, Canada, Argentina. Tutto questo cosa genera? Genera la necessità di una riconsiderazione di tutto l'apparato regolatorio che è giustificata da questa situazione di emergenza. E questo argomento lo ritroviamo sul patto di stabilità, lo ritroviamo sulle leggi sugli aiuti di Stato, lo ritroviamo sugli standard dei prodotti agricoli eventualmente da importare. Lo ritroviamo sul mercato dell'elettricità. In sostanza c'è la convinzione ormai consolidata della Commissione che occorra rivisitare temporaneamente le regole che ci hanno accompagnato in questi anni. Sulla difesa, quello che ha citato Joseph Borrell è che un dato interessante è che noi spendiamo, l'Unione Europea spende per la difesa 3 volte quello che spende la Russia. Quindi quello che noi dobbiamo ora raggiungere è un coordinamento di gran lunga migliore di quello che è oggi. Sulla situazione macroeconomica anche la discussione è stata interessante e chiaramente è un momento di grande incertezza. Non si può dire che l'economia vada male perché l'Europa continua a crescere. Nello stesso tempo questa incertezza suggerisce preoccupazioni per il futuro e quindi detta quella che è l'agenda di politica economica per i prossimi mesi. I bisogni finanziari dell'Unione Europea per rispettare gli obiettivi di clima, gli obiettivi di difesa e una politica dell'energia sono molto grandi. Secondo i calcoli della Commissione e assumendo che, come dire, la mancanza che noi vogliamo riempire per ciò che riguarda il bilancio della difesa sia 0,6% del PIL dell'Unione Europea, che è quello che ci separa dal livello deciso nella NATO, il fabbisogno finanziario è da 1,5 a 2 e più trilioni di euro nei prossimi 5 o 6 anni. Questo per rispettare gli obiettivi climatici del 20 e del 2030 e per metterci in regola con le promesse che abbiamo sottoscritto nella NATO. Ovviamente i bilanci nazionali non hanno questo spazio e quindi bisogna trovare un compromesso su come generare queste risorse, su dove trovare queste risorse. Occorre una risposta di natura di politica di bilancio qui. È chiaro che se l'economia dovesse indebolirsi perché ci sono queste mancanze di materie prime, perché ci sono queste sanzioni, perché c'è una diminuzione dell'export in generale, perché questa incertezza può proiettarsi sul mercato mondiale, sul commercio mondiale, perché i mercati finanziari sono abbastanza agitati, in quel caso occorrerà una convincente risposta di bilancio, delle politiche di bilancio. Dobbiamo prepararci, ma non è assolutamente un'economia di guerra, specialmente per gli approvvigionamenti di cose fondamentali come il cibo. Alcuni allarmi che ho visto sui giornali di oggi sono grandemente esagerati. Prepararsi non vuol dire che deve avvenire con probabilità 1, se no saremmo già in una situazione di economia di guerra, di razionamento. Quindi la discussione che c'è stata è stata originata da una relazione del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro dello Sviluppo Economico e i due hanno toccato su alcune interruzioni di approvvigionamenti di materie prime in agricoltura e per l'industria. Bisogna però immaginare che queste interruzioni nei flussi di approvvigionamento possano accadere, specialmente se la guerra continuerà per tanto tempo. Quindi la risposta consiste nell'approvvigionarsi altrove e quindi bisogna immediatamente, come stiamo facendo con l'energia, riorientare le nostre fonti di approvvigionamento verso altri posti. Questo significa costruire delle nuove relazioni commerciali, come stiamo facendo nel campo dell'energia. Come dire, bisogna essere reattivi a queste cose, non bisogna soggiacere all'angoscia, alla preoccupazione e subire passivamente.